La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al ruolo della musica nella storia sociale italiana. In compagnia di Paolo Prato, docente di musica, comunicazione e cultura presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, scopriremo come la musica ebbe una funzione unificante nella storia italiana, prima ancora che si raggiungesse l'unificazione nel 1861. Oltre 150 anni fa, prima dell'Unità d'Italia, scrive Paolo Prato nel libro La musica italiana, una storia sociale dall'Unità a oggi, edito da Donzelli, non c'era una lingua comune e pochi avevano la sensazione di appartenere a una nuova nazione. A Napoli e in Piemonte l'idioma ufficiale era il francese, negli stati papalini il latino, nelle province sotto il dominio dell'impero austriaco il tedesco, mentre i popoli dominati avevano i loro dialetti, dal milanese al parmigiano al ligure. A Giuseppe Verdi, che da studente viaggiava da Busseto a Milano, occorreva non solo il passaporto, ma anche una lingua diversa per farsi capire. In tale contesto, la musica colmò in un certo senso quel vuoto, imponendosi come gergo, per così dire, nazionale, in grado di farsi capire anche al di là dei dialetti locali. La musica come fattore di aggregazione, dunque, prima ancora che si raggiungesse a fatica l'unificazione dell'intero paese nel 1861. È un viaggio di notevole interesse quello che percorre Paolo Prato, attraverso con i generi musicali le tappe fondamentali dei 150 anni di storia unitaria. Un viaggio che condurrà anche noi, nell'arco di alcune puntate della storia e la memoria, ad approfondire attraverso la musica i passaggi più importanti e significativi, appunto, dei nostri 150 anni di storia unitaria. All'epoca in cui si costituisce lo Stato unitario, la maggioranza della popolazione si riconosce soprattutto nella musica di tradizione orale, che si manifesta all'interno di rituali stabiliti dal calendario pubblico. La minoranza che conta si riconosce nella musica classica e operistica. Una terza fascia sceglie infine un registro intermedio, ancora inespresso, ma che viaggia più veloce degli altri due, quello della musica popolare urbana. Nell'Ottocento, i cantastorie a Chioggia e Venezia recitano e commentano in pubblico l'Orlando Furioso, l'Orlando Innamorato, la Gerusalemme Liberata e cantano le ottave del Tasso. Nel Basso Polesine l'usanza resiste fino al 1920. All'indomani dell'Unità sono 1055 i teatri di prosa ed opera. Se quella di tradizione ha caratteri e pubblici diversi, la musica d'arte da subito unisce le popolazioni del nord e del sud. Il pubblico dell'opera è la classe media, tanto in Piemonte quanto in Sicilia. In Italia, tuttavia, manca il romanzo popolare, in auge invece in Inghilterra e Francia. È sostituito dal melodramma, che altro non è che romanzo popolare in musica. È Giuseppe Verdi a interpretare, come scrisse Antonio Fogazzaro, l'anima stessa dell'Italia. E abbiamo in linea Paolo Prato, che è professore di musica, comunicazione e cultura alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, che ha scritto questo interessante libro che ci ha condotto ad approfondire dei momenti importanti, appunto, della storia della musica italiana. Il professor Prato sarà con noi anche per le prossime due puntate e siamo lieti di salutarlo e di dargli il benvenuto. Grazie a voi per avermi dato questo spazio. Professore, questa prima puntata abbiamo deciso di dedicarla al ruolo della musica come fattore unificante negli anni che precedettero appunto l'unificazione nazionale e anche quelli immediatamente successivi. In sostanza potremmo dire che fatta l'Italia, certo, bisognava fare gli italiani, e la musica riuscì a fare gli italiani prima dell'unità politica? È esagerato? È un po' forzato? Beh, sì. sì e no, nel senso che comunque una grossa parte di coloro che si andavano riconoscendo appunto nella nascente nazione, riuscirono attraverso la musica a esprimere molto meglio e in maniera molto più visibile i loro ideali, non solo perché la musica, e allora dovremo subito fare una precisazione, parliamo anzitutto diciamo del melodramma che all'epoca riuscì a coagulare attorno a sé appunto gli ideali di una giovane nazione in fieri, la musica riuscì appunto a dare corpo a tutta una serie di questioni civili ma anche linguistiche che ribollivano, ecco, nel tessuto sociale, culturale di un'Italia che ancora era da farsi e di un popolo di italiani che assolutamente non esistevano, perché se l'Italia era una mera espressione geografica, come ci era stato detto qualche decennio prima, insomma, con parole poco gentili, certamente gli italiani non si sapeva, non si poteva dire chi fossero, perché erano sparsi in tante regioni, parlavano dialetti che tra di loro non si comprendevano. Ecco qui che la musica riuscì a fare in modo, diciamo, di rappresentare una prima ipotetica Italia. Quando noi parliamo della grande musica e dell'Italia dell'Ottocento, il riferimento che viene immediato è a Giuseppe Verdi, anche per il ruolo che ebbe nell'interpretare e far sue le istanze patriottiche di quegli anni. È corretta questa lettura, professore? Sì, è corretta, anche se in qualche modo è stata poi mantenuta viva e rivitalizzata di continuo da una serie di stereotipi, nel senso che Verdi personalmente era uno spirito libero, ma aveva comunque una profonda interesse verso le tradizioni del suo paese e ci credeva moltissimo. Era un autentico patriota anche, no? Assolutamente un patriota, ebbe anche poi il destino peraltro non realizzato di diventare parlamentare, però ecco, diciamo così che le sue opere indipendentemente, ecco, dalla volontà precisa che esse dovessero rappresentare una bandiera per tutti, comunque in quel modo funzionarono, molte di quelle funzionarono proprio per animare un po' la vita, anche la vita politica, e quindi non solo il famoso Viva Verdi che poi verrà utilizzato come acronimo per dire viva Vittorio Emanuele re d'Italia, ma tutta l'opera verdiana è intessuta, ecco, di messaggi subliminali che comunque portano un popolo verso l'unificazione. Scorrendo il suo libro, professore, apprendiamo che in quegli anni, all'epoca appunto in cui si costituiva lo Stato unitario, la maggioranza della popolazione si riconosceva nella musica di tradizione orale, la minoranza che contava in quella classica e poi una terza fascia che sceglieva un registro intermedio, lei scrive, quello della musica popolare urbana. Poi interviene il melodramma, come poc'anzi lei ricordava. Si tratta di generi che coesistono in che modo, professore? No, non coesistono proprio per niente, nel senso che c'era una separazione netta fra tutti questi generi che lei ha appena elencato. In qualche modo il melodramma, che funzionava, ecco, l'abbiamo detto prima, da collante ideale e al tempo stesso faceva anche, svolgeva anche una funzione di alfabetizzare le masse che ancora non conoscevano la lingua italiana, ma si studiavano in dialetto, diciamo, il melodramma riuscì a essere esportato al di fuori anche dai teatri e dai luoghi deputati, e in questo modo, ad esempio attraverso l'opera mediatrice delle bande, riuscì ad arrivare laddove i teatri non esistevano e quindi a diffondersi anche presso popolazioni che conoscevano, musicalmente parlando, solamente il loro orticello e quindi le loro danze, i loro canti ristretti a quella specifica regione. Il melodramma riuscì appunto, proprio per la sua natura e anche per il fatto che era sostenuto da una discreta impresa editoriale alle spalle, riuscì a diffondersi anche in aree rurali, senza toccare proprio stati più bassi della popolazione, ma comunque arrivando ad essere effettivamente la musica pop di oggi, se vogliamo usare un paradosso. Sì. Vorrei tornare per un attimo al suo discorso relativo alla funzione pedagogica della musica. La musica fa sì che il paese cominci a crescere insieme anche dal punto di vista culturale, oltre che sociale. Una funzione che secondo lei potrebbe essere assimilata a quella che ebbe la televisione pubblica all'inizio degli anni 60, quando alcune trasmissioni, come sappiamo, ebbero un ruolo decisivo nel fornire i primi rudimenti a una fascia di popolazione che non aveva potuto frequentare le scuole. Certamente, questo è un fatto assodato. Se ci andiamo a leggere tutta una serie di interventi nell'ambito, ad esempio, della critica letteraria, lo stesso De Santis riconosceva il ruolo fondamentale del melodramma nell'alfabetizzare le popolazioni ancora prive di una lingua nazionale. Lo stesso Gramsci, ad esempio, ebbe parole di elogio per la funzione emancipatrice che ha avuto il melodramma, pur criticandone, diciamo, gli aspetti retorici che tendevano a creare appunto un atteggiamento appunto melodrammatico. Non a caso l'aggettivo melodrammatico ha sempre una connotazione negativa, però visto in un'altra luce effettivamente il melodramma riuscì a fare quello che il sistema scolastico non era assolutamente in grado di fare all'epoca.